siamo soli. Piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Grande come amore detto all'ultimo gettone, vero come il caldo di un abbraccio alla stazione, bello come quando posso stringerti la mano, io ti amo. Prepotente come il bacio che ci ha fatto innamorare, diffidente come un gatto nel lasciarsi accarezzare, c'è una cosa più di te.